29 novembre, giorno di venerdì, 9 minuti in punto. Ricordiamo subito che stasera grande cena di Radio Stafugico al Circle Offside di Via Pescarola, qui vicino alla radio, quindi rimaniamo in zona. Menù ricco, ricca anche i partecipanti, una, diciamo così, anche perché è una possibilità per conoscere la redazione della nostra emittente e altrettanto una possibilità di finanziare una voce indipendente, e Dio sa quanto sono rare e necessarie. Detto questo, passiamo invece a un altro luogo di associazionismo popolare, l'ISM24, perché oggi, da oggi a domenico, nella nuova sede di ISM24 si terrà l'iniziativa Tre giorni insani, strumenti, pratiche e storie di autogestione. Ne abbiamo parlato con Andrea del centro sociale stesso, sentiamo le sue parole. Tre giorni insani, strumenti, pratiche e storie di autogestione. È una tre giorni sull'autogestione che abbiamo deciso di organizzare già dal primo giorno, diciamo, di occupazione, il 15 novembre, quando abbiamo aperto la città. Lo spazio appunto abbandonato dell'ex caserma Sani. Ci siamo un po' lanciati in questa cosa sull'onda dell'entusiasmo e anche per voler rilanciare da subito su quella che è un po' la centralità della pratica dell'autogestione nella nostra esperienza e che vogliamo anche che sia ovviamente il perno anche di quello che viene, di quello che verrà in questo nuovo spazio che continua a essere attraversato da centinaia di persone, da un sacco di persone ogni giorno, dove ogni giorno ci sono appunto lavori per mettere in sicurezza, rendere abitabili gli spazi. Quindi abbiamo deciso da subito di fare organizzare questo incontro di questi tre giorni di respiro nazionale proprio sui temi che ci diamo siano centrali fin da subito su questa esperienza. La tre giorni sarà composta di diversi momenti. Iniziamo venerdì tardo pomeriggio verso le 18 e il primo momento sarà un momento in cui invitato a fare delle riflessioni su appunto sull'autogestione. Tony Senta, un compagno, uno storico compagno anarchico che ha curato e scritto diversi testi su anarchia e autogestione, che farà appunto una riflessione iniziale per aprire la tre giorni. E poi la sera, dopo la cena, facciamo un momento più storico, cosa che tra l'altro è nata un po' su un'esigenza condivisa da alcuni compagni, alcune compagne, anche da persone che hanno attraversato lo spazio nuove, che si sono affacciate diciamo anche nei primi giorni dell'occupazione. Facciamo questo momento più storico per ripercorrere un po' appunto la storia del movimento Bologna dagli anni 70 al 2000 più o meno, o ad oggi. Ne parliamo con Renato Busarello del laboratorio Smascheramenti, che ci parla del movimento femminista a Bologna a partire dagli anni 70, con Pino De Biasi che ci parla delle esperienze del coordinamento antiimperialista antinucleare degli anni 80 e con Valerio Monteventi più con uno sguardo sulle mobilitazioni a Bologna attraverso la storia degli spazi sociali, diciamo. È che è una cosa poi che ci porta anche un po' a interrogarci, no, su dove siamo oggi, che cosa facciamo, cioè da dove veniamo e che cosa facciamo, ecco. Sabato invece, sabato inizia la mattina con il nuovo mercato di Campi Aperti, l'associazione di piccoli produttori che fanno agricoltura biologica contadina, che appunto inaugura questo nuovo mercato all'interno dell'ex caserma Sani, e siamo tutti molto felici di questa cosa, che è un modo anche appunto per aprire al quartiere e invitare ad attraversare lo spazio anche con questa modalità. Le attività della tre giorni riprendono appunto nel pomeriggio con alle 15 nel pomeriggio facciamo un laboratorio sul metodo del consenso e poi cominciamo ad affrontare il tema, diciamo, crisi ecologica, mobilitazioni ambientali e lotte territoriali, che è un po' il filone che ci accompagna per tutto il pomeriggio, facendo prima nel tardo pomeriggio, metà pomeriggio, un momento più teorico su a sfondo ecologia politica, diciamo, e mobilitazioni ambientali con Salvatore dell'Università di Catania, con il collettivo Epidemia, che è un collettivo appunto che si occupa prevalentemente di questi temi di ecologia politica, che cura anche una rivista che si chiama Rivista Epidemia appunto, e con Fridays for Future, protagonisti delle mobilitazioni che domani tra l'altro saranno in piazza per lo sciopero globale. Nel tardo pomeriggio, prima della cena, facciamo un momento invece in cui incontriamo alcuni movimenti, lotte territoriali. Abbiamo ospiti i NOTAV, movimento NOTAV, NOTAP, NOAB del gas di Sulmona e alcune attivisti di Taranto contro l'Ilva. Ed è un momento un po' più di confronto, diciamo, su autonomia dei territori, autogestione delle lotte territoriali e autodeterminazione, ecco, di chi vive nei territori. Poi la sera musica, jam armonica e DJ set, e poi invece il giorno dopo facciamo un momento la mattina, che domenica mattina sarà popolatissimo, alle alle 10:30 apriamo con un momento che si chiama, abbiamo chiamato Vivere gli spazi, abitare i territori, su beni comuni, occupazioni e autogestione, in cui si incontrano diverse esperienze, appunto, che abbiamo invitato a partecipare e a confrontarci su questi temi da anche fuori Bologna. Saranno presenti la Mondeggi Fattoria Senza Padroni, che è un'occupazione di terre in Toscana vicino a Firenze, l'ex asilo Filangieri di Napoli, Santa Fede Liberata e lo Scugnizzo Liberato sempre di Napoli, il Forte Prenestino da Roma, e poi invece su, diciamo, le esperienze bolognesi sono, vabbè, ci saremo noi, c'è il Comitato ESA e Banca Rotta. In questo momento volevamo parlare prevalentemente un po' del rapporto che queste esperienze, noi come esperienze autogestite, abbiamo con la città, sia da un lato, diciamo, rapporto tra centri sociali, occupazioni e apertura ai quartieri, e dall'altro lato anche il confronto fare un confronto sulle forme di riconoscimento o non riconoscimento delle esperienze sociali autogestite da parte delle istituzioni. Nel pomeriggio facciamo un laboratorio sulla moneta sociale autogestita, organizzato dal laboratorio, appunto, bolognese sulla moneta sociale, e delle passeggiate come quelle che abbiamo fatto il fine settimana scorso per conoscere l'area dell'ex caserma Sani, organizzate dal laboratorio di urbanistica che è nato in XM. Chiudiamo la 3 giorni con un'assemblea plenaria di restituzione, di confronto, in cui tiriamo un po' le fila di quello che ci siamo detti in questi giorni, soprattutto anche cerchiamo un po' di mettere a fuoco quali sono le cose, diciamo, più di ispirazione che sentiamo che ci servono anche da approfondire, da rilanciare per l'apertura di questa nuova esperienza che è quella della Sani. When the music's over, when the music's over, yeah, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Over. When the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Oh. Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, venerdì 29 novembre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato alle notizie dall'Europa e dall'Africa. Cominciamo come di consueto dall'Africa, cominciamo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove 4 operatori sanitari impegnati nella lotta contro il virus Ebola sono stati uccisi ieri mattina nel nord-est del paese, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. La notizia è stata data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che coordinava il team di operatori. Nel 2019 sono stati registrati oltre 300 attacchi agli operatori sanitari che lavorano sul virus Ebola, attacchi che hanno causato 6 morti e 70 feriti. Nella zona dove è avvenuto l'agguato la scorsa settimana ci sono stati altri assalti delle milizie armate. Dal 5 novembre sono 99 le persone uccise nella sola zona di Benin. Guinea-Bissau sarà tra 2 ex primi ministri la sfida al ballottaggio per le presidenziali, che si terrà il prossimo 29 dicembre. Nessuno dei 2 candidati ha ottenuto la maggioranza al primo turno. Ci sarebbe andato vicino, quasi, Domingos Pereira, che ha raggiunto il 40%, distanziando il suo più diretto avversario, Umaro Cissoko Embalo, arrivato secondo con il 28%. Se Pereira si è congratulato con Embalo, quest'ultimo invece ha contestato i risultati. Secondo i suoi conteggi, il divario sarebbe molto inferiore, 38% per Pereira, 36% per lui. Solo quarto invece l'attuale presidente Mario Vaz. Benin, il governo ha dato tempo fino al 1 dicembre al capo della delegazione dell'Unione Europea per lasciare il paese, accusandolo di ingerenza negli affari di politica interna. Olivier Net, secondo le autorità locali, non rispetterebbe il dovere di riservatezza e, nonostante gli avvisi del Ministero degli Esteri del Benin, avrebbe continuato nei suoi eccessi, così sono stati definiti. L'Unione Europea ha chiesto spiegazioni più precise al governo, senza però ancora ottenerle. Zambia, 15 anni di prigione per 2 uomini riconosciuti colpevoli lo scorso anno di atti contro natura e denunciati da un impiegato dell'hotel dove alloggiavano, che ha affermato di averli visti dalle finestre mentre avevano un rapporto sessuale. Ieri il loro appello contro la sentenza di primo grado è stato bocciato e quindi la condanna è diventata esecutiva. E restiamo in tema di diritti umani in Nigeria. Processo a Lagos per 47 uomini accusati di manifestazioni pubbliche di affetto nei confronti di persone dello stesso sesso. Erano stati tutti quanti arrestati nel 2018 in un hotel della città. I 47 si sono dichiarati innocenti dall'accusa di omosessualità, affermando che nell'hotel stavano semplicemente festeggiando un compleanno e denunciando un ricatto da parte dei poliziotti. L'omosessualità in Nigeria è reato ed è punita con una pena fino a 10 anni, mentre il matrimonio gay è punito con una detenzione fino a 14 anni. Maldive, l'ex presidente Abdullah Yamin è stato condannato a 5 anni di carcere, una multa di 5 milioni, con l'accusa di riciclaggio di denaro per aver stornato $1 milioni dalle casse dello Stato. Yamin ha governato le Maldive tra il 2013 e il 2018, in un periodo caratterizzato da un forte autoritarismo. Mauritania, celebrati ieri 59 anni dall'indipendenza del paese. La cerimonia si è svolta alla presenza del nuovo presidente Mohamed Ould Ghazouani e dei suoi predecessori, ad eccezione però di Mohamed Ould Abdelaziz, che ha lasciato il potere quest'estate e che ha un forte contrasto con l'attuale capo di Stato. Gabon, 8 alti funzionari dell'amministrazione statale sono stati arrestati per corruzione dopo un interrogatorio che ha coinvolto 16 persone e che si è protratto per quasi 24 ore. Sono accusate di corruzione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Per altri 8 è stata disposta la libertà provvisoria. Tra gli arrestati ci sono l'ex direttore generale della Compagnia Nazionale di Petrolio e attuale consigliere politico del presidente, e poi l'ex direttore generale della Cassa Malattie, il suo omologo della società mineraria e quello alla Cassa Depositi e Prestiti. Europa, per qualcuno oggi è il venerdì nero, per altri il venerdì verde, decisamente più luminoso. Manifestazioni infatti in diverse nazioni per il venerdì per il futuro, Friday for Future, a pochi giorni dall'inizio della COP25, il vertice sul clima che si svolge a Madrid. Per l'occasione è stato realizzato un video musicale che state ascoltando qui in sottofondo, realizzato con il contributo dei ragazzi di tutto il mondo. Il link al video e alle manifestazioni che ci saranno oggi lo trovate sul nostro sito. Germania si saprà domani chi andrà alla testa del Partito Socialdemocratico, che dopo le dimissioni di Andrea Nahles nel giugno 2019 è alla ricerca di una nuova leadership. A contendersi la vittoria finale sono due coppie di candidati sul modello dei Verdi tedeschi, Clara Geiwitz e Olaf Scholz, e poi Saskia Esken e Norbert Walter Borjans. La prima coppia, grazie anche alla presenza di Scholz, attuale ministro delle Finanze, sembra essere la favorita. Le elezioni si chiudono oggi, sarà possibile votare online fino alla mezzanotte. Se i risultati si sapranno domani, però, per la proclamazione bisognerà aspettare fino al congresso del partito, che si terrà tra il 6 e l'8 dicembre prossimo. Cambio di passo, anzi di manganello, per la polizia spagnola, che per 1 milione di euro più IVA acquisterà nei prossimi 2 anni 10.000 nuovi manganelli. Nel fascicolo di gara pubblicato in rete si legge che il nuovo equipaggiamento è in acciaio o lega di altissima qualità, di una lunghezza che varia da 26 cm quando ripiegato a più di mezzo metro in tutta la sua estensione. Il suo peso non supera i 610 grammi. Un manganello quindi discreto per le sue dimensioni ridotte, spiega il documento, con un effetto psicologico dissuasivo a causa del suo effetto rumoroso quando viene aperto. I primi 3.000 manganelli estensibili arriveranno entro la fine dell'anno, gli altri nel corso del 2020. Il sindacato di polizia aveva chiesto già da tempo nuovi strumenti e aveva ripetuto questa richiesta dopo le proteste in Catalogna, sostenendo che gli agenti non fossero sufficientemente equipaggiati. Questo tipo di manganello è già in uso ai Mossos e alla Guardia Civile. Il sindacato aveva anche chiesto di acquistare taser per tutti gli agenti. Belgio, il Parlamento ha votato ieri una risoluzione che chiede la partecipazione del governo al programma europeo di ripartizione dei migranti. Proposto dai partiti ecologisti e dai socialisti, sostenuto dai centristi, il testo ha ottenuto 80 voti a favore contro 48, ma tuttavia non sarà vincolante per l'esecutivo. La ministra Maggie de Blok sostiene che il meccanismo non tiene conto di quella che lei definisce migrazione secondaria, né dei ricongiungimenti familiari, elementi questi che situano, a suo parere, il Belgio in una situazione di saturazione pari a quella dell'Italia. Una nuova indagine dell'Istituto svedese per la difesa, il FOI, mostra come sempre più investitori cinesi stiano acquistando imprese svedesi. Si tratta sia di imprese grandi ed economicamente redditizie, sia di imprese piccole ma strategicamente significative. Secondo Jerkel Elstrom, analista di politica di sicurezza presso il FOI, la maggior parte di queste si situano nel settore della tecnologia industriale e della biochimica. Il FOI ha mappato 51 casi in cui società cinesi o privati hanno acquistato società svedesi. La maggior parte degli acquisti è stata effettuata negli ultimi 3 anni. La mappatura del FOI è la prima nel suo genere e viene effettuata per conto del Ministero degli Affari Esteri. Francia, riunione oggi di ben 9 dei ministri dell'esecutivo per mettere in piedi la strategia migliore per affrontare la giornata del 5 dicembre, tra meno di una settimana, in cui una parte significativa dei francesi sarà in piazza per dire no alla riforma delle pensioni. Il presidente Macron la scorsa settimana aveva annunciato un cambio del proprio programma di lavoro proprio per non essere completamente assente da Parigi in un momento così delicato. Finora sul piano sindacale l'adesione è massiccia e lo ammette lo stesso governo. Se lo sciopero è stato lanciato dalla Confédération Générale du Travail con Force Ouvrière e la Fédération Syndicale Unitaire et Solidaire, altri sindacati hanno lasciato i propri iscritti liberi di decidere o si sono invece uniti alla mobilitazione. Coinvolti tutti i settori, a partire da quello dei trasporti ferroviari, dove l'appello è a uno sciopero illimitato, mentre nei trasporti aerei lo sciopero coinvolge il personale di terra. Aderiscono alla mobilitazione i sindacati degli insegnanti, dove si prevede un 60% di adesioni, nonché il personale non insegnante delle scuole. E poi saranno in sciopero anche gli addetti del settore energetico, della raccolta rifiuti, gli operai delle fabbriche automobilistiche, gli ospedali, anche se qui la maggior parte ha aderito allo sciopero lanciato per il 17 dicembre. Non saranno al lavoro giudici e avvocati e nemmeno i poliziotti, se raccoglieranno l'appello del loro sindacato. Sciopereranno infatti dalle 10 alle 15. Però non scenderemo in piazza a manifestare, ha detto mercoledì il segretario di Allianz, uno dei due sindacati del settore. Gran Bretagna, dopo 30 anni di indagini, false inchieste, ammissioni e processi, si è concluso con una assoluzione il procedimento giudiziario contro David Dakenfield, che nel 1989 era a capo della polizia del South Yorkshire nel giorno in cui 96 tifosi morirono tra la calca nello stadio nella semifinale della Coppa d'Inghilterra tra il Liverpool e il Nottingham. Il tribunale ha deciso per un verdetto di non colpevolezza con una netta maggioranza, 9-1. Dakenfield era accusato di aver contribuito alla morte dei tifosi per la cattiva gestione della sicurezza nell'occasione della partita, adottando misure che avevano messo in situazione di pericolo e poi di morte i tifosi. L'allora capo di polizia aveva ammesso le sue responsabilità, compreso il fatto di aver all'epoca accusato i tifosi di aver sfondato i cancelli piuttosto che ammettere di aver dato lui l'ordine di aprirli. Sul nostro sito troverete i link per seguire questa storia raccontata oggi dalla Guardian. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto, vi lascio con gli altri programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle rubriche di Radio Bullets per chi ci ascolta online. Una buona giornata, un buon fine settimana, appuntamento a domani con il notiziario orientale a cura di Serena Console. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Nove 26 minuti di questo 29 novembre venerdì, siccome mi hanno telefonato per avere maggiori ragguagli sarò più preciso. Dunque questa sera cena con la redazione di Radio Città Fujiko. Sarà presso il circolo Offside di Pescarola, il nuovo spazio che ha aperto in via Zanardi a 230/2, numero civico, proprio vicino alla sede della radio. È una cena naturalmente di autofinanziamento. Vi do anche il menù: polenta con ragù o con zucco e formaggi per chi non vuole mangiare carne, pasta con i broccoli, zucca all'aceto balsamico, patata al forno o cavolo viola, dolci della casa a go go. Come fare per prenotare? Per partecipare alla cena è obbligatorio prenotare. Per farlo potete telefonare allo 051 34 6458 da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, lasciando il vostro nome e il numero di commensali che volete portare. 15 euro il costo, escluse le bevande. Questo è quanto, e penso di c'è ancora tempo fino alle 18 di questo venerdì. Detto questo, partiamo dal venerdì, perché è un venerdì anche importante evidentemente sul terreno ecologico. Sciopero globale, aria fresca sul clima, dice il manifesto fin dalla prima pagina. Oggi cortei in tutto il mondo. Fridays for Future tornano in piazza oggi per il quarto sciopero mondiale per il clima, dopo quello del 15 marzo, 24 maggio e 27 settembre. Manifestazioni sono previste in 157 paesi per un totale di 3.406 eventi e l'Italia si accende in piazza in 167 città. I giovani attivisti dei Fridays for Future dicono chiedono ai governi zero emissioni dai combustibili fossili entro il 2050 a livello globale, entro il 2030 in Italia. E su questo tema il manifesto poi con Christian Raimo parla della manifestazione romana e dice l'emergenza rifiuti nel giorno del Friday for Future, dice lamentando, secondo Christian Raimo, una indifferenza o comunque non una sufficiente sensibilità sull'argomento da parte di tesi comitati ambientali. Quando nel frattempo l'amministrazione Raggi fa una pessima campagna di sensibilizzazione per la sicurezza, leggo dal manifesto, con dépliant distribuiti nelle scuole che vorrebbero chiamare raccolta per la cura della città e sono invece le invettive contro i poveri. Certo che questa cosa qui non aiuta certamente una coscienza popolare sull'argomento. E si chiamano i governi, c'è ancora il manifesto, Friday for Future vuole costringere i politici a passare dalle parole ai fatti, ma ahimè la controprova non è entusiasmante, perché sopra leggo aria fritta. Unione Europea è emergenza climatica, ma Ursula perde già i pezzi. L'Europarlamento approva le risoluzioni non vincolante, ma la maggioranza si spacca. Il testo passa con 429 voti, 225 contrari, 19 astensioni, i popolari sono divisi. E nel governo, per quanto riguarda l'Italia, quindi da Bruxelles passiamo all'Italia, abbiamo questo elemento che l'impatto ambientale del governo italiano. L'impatto ambientale lo valutano i soliti, noti. La nuova commissione non può partire. Sospetti, conflitti di interesse, false dichiarazioni riconoscono gli uffici di Costa, che è il ministro all'ambiente, perché in carica resta la commissione Presti Giacomo del 2008. Questo è, come diceva qualcuno, cambiare tutto per non cambiare nulla. La parola si cambia tutto, nella concretezza si cambia ben poco. Ma questo non significa che qualcosa sia in movimento, anzi, perché leggo crescono le iniziative ecologiste, nel 2019 sono 1443, dove? In Russia, sotto l'egida di Putin. Presidio permanente nella centrale piazza Pushkin di Mosca per informare sul progetto di costruzione del paesino di Sies di una discarica della spazzatura della capitale. Quindi non c'è solo Malagrotta a Roma, ma c'è anche questo Sies in Russia. Ma c'è un altro venerdì un po' più consumista, un po' più impattante nell'ambiente anche, oltre che nel portafoglio. Non solo venerdì, così apre l'Avvenire. Nel giorno degli sconti e del picco degli acquisti, siamo al Black Friday, quindi venerdì per venerdì, giovani di nuovo in piazza, quindi vediamo la contrapposizione che fa l'Avvenire, per salvare il pianeta. E domani ritornano i sabati del consumo sostenibile, si ricorda dall'Avvenire. Mentre, appunto, sul consumo sostenibile, Stefano Feltri dal Fatto Quotidiano dice: tutti i dilemmi del Black Friday. L'algoritmo di Amazon, ci racconta, nella sua infinita saggezza, ha deciso cosa sottopormi per il Black Friday per una impastatrice globale Kenwood 6,7 litri, plastica e acciaio. Non ho idea che cosa sia, ma devo ammettere che sembra un buon affare. Soltanto 409,99, perché non sono mai 440, sono 439,99 centesimi, invece che 9,50, un risparmio del 54%. Un timer scandisce l'attesa. L'acquisto sarà possibile dalla mezzanotte del Black Friday, la fine del giorno del ringraziamento degli Stati Uniti d'America, quando gli americani, satolli del tacchino ripieno, si lanciano nel lungo mese dello shopping natalizio. Grazie, buongiorno, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e a tutti. Green Friday e Black Friday, c'è da dire che noi boicottiamo il Black Friday e se non compriamo niente risparmiamo il 100%, giusto Alfredo? E il Green Friday, lo ricordiamo, c'è il concentramento in piazza 20 settembre anche qui a Bologna da parte degli studenti e delle studentesse, e c'è questo corteo appunto dei Friday for Future. Quindi continuiamo con la nostra rassegna stampa parlando comunque di clima. Il clima, l'Unione Europea litiga sul clima, ci dice pagina 12 La Stampa, Marco Bresolin, inviato di Bruxelles. L'Europarlamento dichiara l'emergenza ambientale, il PPE si spacca. E oggi ricorda anche La Stampa che c'è in piazza, ci sono i giovani di Greta, e ci fa sapere che tra poco inizia la COP25 a Madrid, martedì per la precisione, la 25esima conferenza mondiale sul clima dell'ONU, che durerà fino al 13 dicembre, avrebbe dovuto tenersi in Cile, ma dopo le proteste è stata spostata. Il Parlamento dell'Unione Europea chiede ai nuovi vertici europei di prendere impegni alla COP25 per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050 e ridurle del 55% entro il 2030. E questa è la prima notizia sul clima. La seconda, sempre dalle pagine della Stampa, un corrispondente di Catania ci dice che l'Etna sta evolvendosi, e ci sono un sacco di crateri attivi e gli esperti dicono che questa è una fase senza precedenti e si sta caricando di magma, e l'attesa è per una nuova grande eruzione, per cui sono state ridotte le escursioni dei turisti. E c'è un grave incidente climatico in Sud Sudan, a Maban, ed è questa la fotonotizia della Stampa nel paginone centrale. Ci sono rifugiati locali che pescano insieme in un canale dopo le violente alluvioni che hanno travolto l'est del paese negli scorsi mesi. Le calamità hanno causato 420.000 sfollati. Questo è un report delle Nazioni Unite. C'è il rischio di una vera emergenza nella contea di Pibor e in molte altre aree. Cliniche, scuole, chiese, stazioni di polizia sono sott'acqua. Ancora un'altra notizia, questa è positiva, nuove fonti energetiche per arrivare appunto all'abbattimento dello sfruttamento delle energie fossili. Ce lo dice l'ENI, c'è una rivoluzione che sfrutta le onde del mare per creare energia. Il primo esempio al mondo di impianto combinato tra fotovoltaico e appunto energia del mare, elettricità dal mare, una grande alleanza per i progetti italiani in intesa fra ENI, CDP, Fincantieri e Terna. E queste erano le notizie della Stampa, mentre invece dal punto di vista dell'ambiente, dalle pagine di Repubblica apprendiamo che oggi c'è un bel allegato, un libro di Stefano Mancuso che ci parla della Nazione delle Piante, in edicola oggi con un supplemento. Questo libro parla appunto del un nuovo patto per la terra, è un immaginario che le piante affidano alla specie umana, 8 punti di una costituzione che potrebbe permetterci di superare la crisi di cui ci dibattiamo, prendendo spunto appunto dalle piante. L'ultima notizia di ambiente la prendiamo dalla cronaca del Carlino e apprendiamo che Rimini alza il lungomare. Non sarà mai come Venezia, c'è un'intervista al sindaco, c'è il clima pazzo, la capitale delle vacanze porterà la passeggiata a quota il lungomare appunto a quota 2,85 metri, crescendo di circa 80 centimetri. Il sindaco farà la diga delle acque per evitare appunto per l'innalzamento delle maree del mare che Rimini venga allagata dal mare. Il piano della mobilità, il secolo XIX. Dopo le grandi piogge e le frane, il giornale ligure titola con allarme per la A12, corrosi piloni del viadotto Soro. O Sori, anzi al plurale, perché ormai non c'è più il Gratta e Vinci, ma il nuovo gioco d'azzardo è Rodi e Casca. Ma Savona invece riapre oggi il collegamento con il Piemonte, la carreggiata Autofiori, ci dice il Corriere della Sera. E Grillo sulle opere pubbliche afferma, ed è un paginone che ci dà la corsiera la firma di Lorenzo Salvia, autostrade è tempo di cambiare. Il posto del fondatore del Movimento 5 Stelle Di Maio sulla revoca della concessione, nessun passo indietro. Ma qualche passo in avanti invece lo fa un giro di amici, con quelli tra virgolette. Perché parlando del caso Open che riguarda il giglio magico renziano, prendiamo e stralciamo prima di tutto questa notizia. Caso Toto, così Marchino, c'è Carrai, contattò l'amministratore delegato di Autostrade. Consulenza l'avvocato Bianchi, per i PM ci fu l'intromissione dell'amico Di Matteo, interagì con il vertice dell'azienda in causa con il gruppo. Quindi questo è un cortocircuito. Ma su questa discussione delle revoche, delle concessioni dei vari gruppi autostradali, che ci hanno lucrato e non poco, sull'argomento, il giornale apre invece con squadristi a 5 stelle. Cosa succede? Governo di boia, cielo, raccondisce il lettore. Di Maio e Conte mettono alla gogna i Benetton, vogliamo vendetta. Ecco, questo è i grandi gruppi che si muovono e i giornali che rispondono allegramente. Invece parliamo di un gruppo più contenuto, ma forse più interessante, ed è un gruppo di associazioni ambientaliste che ha organizzato ieri sabato un incontro sul tema della mobilità sostenibile e sfertano le amministrazioni pubbliche dal comune, passando per la città metropolitana fino alla regione, a passare alle parole e ai fatti, un argomento molto sensibile prima anche delle elezioni regionali stesse. L'intervista su questo argomento allora della nostra Alessia Mondelli a Claudio De Luca, ascoltiamo le sue parole. L'appuntamento che è fissato per la mattinata del 30 novembre al centro Saffi in via Berti è l'evento che abbiamo promosso come diverse associazioni impegnate sul terreno del potenziamento del trasporto pubblico e sostenibile. Abbiamo la presenza di tre esperti, che sono il professor Balzani dell'Università di Bologna, che cercherà di delineare, mettere in rapporto la situazione di emergenza climatica con le necessità di cambiamento del trasporto individuale e anche, credo, collettivo, perché il problema dell'adeguamento e delle emissioni riguarda anche i mezzi pubblici, no? Se parliamo di tram è un conto, ma se parliamo dei bus, dobbiamo, in questo senso, abbiamo ancora molti mezzi che funzionano e circolano alimentati a gasolio. Poi abbiamo anche due esperti, che sono Maria Rosa Vittadini e Piero Cavalcoli, che cercheranno di entrare nel merito di quelli che sono i piani che, da un lato, la città metropolitana, se parliamo del PUMS, e la regione, il PRIT, si stanno dotando per appunto pianificare gli investimenti che riguardano il trasporto. Quindi in questo senso parliamo di trasporto pubblico ma anche di trasporto privato, quindi c'è un problema anche delle infrastrutture. E noi chiediamo sostanzialmente che sia coerenti con quello che è stato scritto, se ci va bene ovviamente, perché su alcuni punti ci riconosciamo, e vogliamo appunto che gli investimenti si invertano nei rapporti, quindi potenziando il trasporto ecosostenibile e riducendo fortemente gli investimenti che riguardano la mobilità su gomma. Quindi è un problema che riguarda l'area di Bologna ma anche la regione. Quindi chiediamo in questo senso uno sforzo per essere coerenti con le dichiarazioni che sono state fatte di emergenza climatica, che richiedono, ripeto, misure a stretto giro, coerenti, puntuali, perché altrimenti gli obiettivi non si possono raggiungere. Quindi se parliamo di una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 nel 2030, bisogna non aspettare il 2029, siamo già ormai nel 2020, e quindi dai piani si deve passare alle realizzazioni. In questo senso anche gli investimenti devono essere coerenti. Fondamentalmente ne parleremo, ci sarà anche chiaramente l'esposizione dei nostri punti nell'introduzione alla serie di interventi che ci saranno. Cosa ha reso possibile la convergenza di associazioni diverse con finalità effettive? momenti? Beh, credo che in questo senso abbia il fatto di esserci ritrovati d'accordo su una serie di osservazioni che riguardavano l'articolazione del piano urbano di mobilità sostenibile, la necessità, ripeto, di fare versante comune su quelli che sono i punti forti emergenti che riguardano il trasporto pubblico. Quindi qui abbiamo trovato un collante comune. Poi chiaramente su alcune questioni posso dire magari non siamo d'accordo a latere, però ecco, abbiamo cercato di trovare l'unità. Si fa a livello sindacale, si fa a livello, se si trovano dei punti comuni, credo che sia importante essere vigili, attenti insieme, non un'associazione singola. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. E allora ritorniamo in studio, in diretta, con le attività governative. Una cosa giusta, anche se immagino che qualcuno potrà anche storcere il naso, perché parla dei costi della politica, ma mi sembra sacrosanto quello che ci avverte, di cui ci avverte il Corriere di Bologna: il governo alza lo stipendio ai sindaci. Perché quali sindaci? Quelli di piccoli comuni, quelli che a volte lo fanno gratis e ci mettono i soldi loro, avranno un'indennità netta di 1.400 euro, vittoria dell'ANCI, l'Azione Nazionale dei Comuni Italiani. La nuova norma verrà inserita nella manovra di bilancio. Ignassi dice la doverosa è una scelta di dignità. Poi dal flash d'agenzia trovo notizie dall'Alitalia. E quindi avanti per ulteriore scouting, cioè cercare compratori. Così, secondo fonti vicine al dossier all'Italia, ci sarebbe concluso l'incontro tra il ministro dello sviluppo economico Patuanelli e i commissari Enrico Laghi, Stefano Falpaleari e Daniele Di Scepolo. Il loro mandato sembrerebbe ampio, dice il flash dell'agenzia, e lascerebbe aperte le diverse possibilità. Al momento i tre resterebbero quindi in carica per nuovi approfondimenti ed esplorazioni. Nei giorni scorsi era invece circolata l'ipotesi di sostituire la governance con un super commissario. Nel frattempo il giornale Il Corriere di oggi ci racconta, nello spazio economia, all'Italia convocati i commissari di ipotesi nazionalizzazione. Quindi Patuanelli ancora sì al ritorno dello Stato. Questo è quello che racconta sul versante lavoro il governo. Altro terzo tema invece è la instabilità del governo, direi un'instabilità perenne. Ogni giorno c'è una bordata, vedremo quanto Conte potrà rimanere in bilico tra una tensione e quell'altra. Oggi Monica Guerzoni nel retroscena del giornale, perché poi se non ci sono le tensioni vere, i giornali ci aggiungono quelle fittizie o le amplificano. Quindi tra falso, verosimile, vero, francamente è difficile per chi si informa, vuole informarsi, avere un quadro esatto della situazione. Comunque Di Maio non molla la presa, da Palazzo Chigi pronto a congelare il salva stati. Torniamo sul salva stati, anche perché credo che le dichiarazioni del PD sul salva stati non aiutino. Dire, come ha detto il titolare del Ministero del Tesoro, che è inutile firmare perché tanto è immodificabile. Tutto è modificabile, basta volerlo. Questo è una prova contraria. Oppure non aiuta neanche le dichiarazioni di Zingaretti, tanto l'Italia non avrà bisogno. Il punto è giusto o non è giusto? Anche se ne hai bisogno o non hai bisogno? Anche per non dare, tra l'altro, fiato alle destre più becere. Quindi Di Maio dice al PD: dovete capire le esigenze identitarie delle 5 Stelle. Beh, questo francamente noi ci interessa molto meno. E Buti, capo di gabinetto di Gentiloni, direi che anche lui non facilita la concordia, perché dice Federico Fubini in questa intervista: le nuove regole sulle crisi, serve più fiducia tra i paesi. Buti, capo di gabinetto di Gentiloni, disciplina tra i paesi indebitati, quindi gogna. E uno si domanda allora chi governa in Europa ancora. Però venerdì ancora nel segno dei pesci, così apre il manifesto: le sardine fanno il pallone. A Genova superate le aspettative, 8.000 in piazza per dire no all'odio, al populismo e al razzismo. Migliaia anche a Verona. Domani tocca Firenze e Napoli, domenica Taranto. Mattia Sartori dice, quello che fu un po' un degli inventori delle sardine bolognesi, le prime sardine in piazza: siamo un presidio fisico, democratico e culturale. Questo dice il manifesto dalla prima pagina. Poi torna con le sardine nel grande mare della politica un po' torbida, l'acqua in questo momento. Comunque noi sardini insieme saremo un presidio contro la deriva leghista. Questa è la grande foto della piazza bolognese, che è stata bissata da tante altre piazze. Quindi l'altra piazza è quella ligure di cui si diceva. Genova batte Facebook, in piazza sono 8.000, la partecipazione sul social si fermava a 5.000. gli organizzatori affermano: il nostro unico slogan oggi è la Costituzione, i diritti umani sono indivisibili e o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Mentre Napoli dice ancora il manifesto, le sardine si fanno in tre, basta con la propaganda di Salvini, previste più di 10.000 persone, 12 città manifesteranno contro Salvini. Il Corriere di Bologna poi, per quanto riguarda il rapporto tra le sardine e la politica, torna sull'argomento più volte chiacchierato dai giornali: le sardine verso il bis e potrebbero schierare Colombo alle elezioni. Naturalmente uno può schierare alle elezioni chi vuole, fino a prova contraria, e non è un reato andare in piazza con le sardine e poi schierarsi con un partito. Il problema è che se ci va in nome delle sardine o meno, questa sarebbe la strumentalizzazione assolutamente da evitare. Le sardine sono già pronte al bis, torniamo in piazza Bologna. Questa è un'altra notizia che ci dà il Corriere, con Sartori: mai militato e mai avuto tessere, ma mi sento ben rappresentato da una coalizione larga che va dal civismo alla sinistra ecologista, progressista, al PD ed altre realtà. Dunque l'ex assessore Colombo in lista, anche qui si dice per un posto nella lista del PD. Questo è quello che ci racconta il Corriere di Bologna. Sì, mentre invece il Carlino, nella pagina nazionale, in prima pagina ha una fotonotizia con Mattia Santori, 32 anni, il bolognese che milita le piazze con le sardine contro il populismo, e la notizia riprende a pagina 7 Marcella Cocchi che lo invita a cena e fa quattro chiacchiere con questo ragazzo, laureato, dormo pochissimo e temo di perdere il controllo di tutto, ma non ci fermiamo. Prima eravamo quattro amici, ora siamo in 20 alla regia, le pagine di Facebook non bastano più, serve una piattaforma, mica uno scherzo, se sono dietro non si ha una Casaleggio Associati e Grillina, ricevono centinaia di mail, queste sardine, le più note, hanno dovuto oscurare i profili. Se ho paura di perdere il controllo, sì, ma come si fa ad arrestare tutto questo? Si fa che si macinano 50 eventi oggi con l'onda verde Greta Thunberg a Roma, domani ci sono prima Ferrara, poi Firenze, la città dell'ex rottamatore a cui non si risparmiano le critiche, ha grandi responsabilità verso questa sinistra che ha smarrito l'empatia del suo popolo. Domenica a Milano, Taranto, il terreno più difficile, all'orizzonte c'è il D-Day, lo sparco delle sardine a Roma il 14 dicembre. E ancora le prime pagine dei giornali, continuiamo con la Stampa, c'è un forte litigio fra Salvini che accusa il premier Conte di raccontare bugie all'Italia e Conte che ribatte lo querelo, e Salvini dice vediamoci in tribunale, prima c'è Carola Racchetta. Vi voglio segnalare un fondo di Marco Bresolin, un fondo di Marcello Sorgi, che parla di Lega e Movimento 5 Stelle così lontani ma sempre così vicini. Lo scontro sul MES, il sistema di salvataggio europeo per i paesi in dissesto, ha toccato livelli inauditi dopo la seduta al calor bianco della Camera di mercoledì. Salvini accusa Conte di aver chiuso l'accordo sul nuovo salva stati a Bruxelles senza aver avuto alcun mandato dal Parlamento, anzi di fatto aggirandolo. Conte in viaggio all'estero minaccia di querelare appunto il leader leghista. L'articolo arriva nel fondo e dice: così facendo Di Maio in sostanza si schiera più di sponda con il suo vecchio alleato Salvini, la posizione sovranista di Lega e Fratelli d'Italia, e non con la maggioranza di cui fa parte attualmente. Se il rinvio della decisione su salva stati dovesse maturare a Bruxelles, Di Maio potrebbe prendersene il merito, invece se dovesse rivelarsi impossibile potrà dire di aver fatto di tutto per modificarlo e magari di aver ottenuto qualcosa. Ancora su Repubblica c'è questo incontro scontro Di Maio e Salvini, ritorno di fiamma, il capo 5 Stelle mobilita i suoi contro il trattato europeo, sostenuto però dai PD, bisogna rivedere l'accordo, il Liga leghista, il Colle intervenga, Conte ha tradito il popolo, la replica di querelo molla l'immunità, questo è quanto. E poi c'è il ciclone che sta coinvolgendo Renzi, il giglio magico, quindi anche il neopartito Italia Viva, e quindi per risonanza anche la maggioranza. Gli amici di Renzi, dice il Fatto Quotidiano, soldi e marchette in Lussemburgo. Le società di Carrai con donatori, quei donatori di Open. E poi c'è l'Espresso che ogni volta che esce porta nuovi e aggiunge nuovo sale sulle ferite renziane. Ieri per i PM che lo indagano, Marchino mediò con l'amministratore delegato di Autostrade, già letto, sul caso di Toto che finanziò Open. Mentre Librandi, deputato, foraggiava la fondazione, 800.000 euro per un seggio nel PD. Chi punta su Cavalli, chi su Matteo. Poi dice ad altri giornali: lo faccio perché sono un idealista, lo faccio per l'Italia. Però insomma, c'era un certo scetticismo intorno a questa affermazione. E ancora qui sì, se abbiamo Conte che vuol querelare Salvini che vuol querelare Conte, c'è l'Esposto che è molto meno, peraltro, perché la querela si va in tribunale. L'Esposto fa sapere alla magistratura che forse c'è un reato, poi dice dalla magistratura. Quindi l'Esposto molto spesso è più per i giornali che per i tribunali. L'Esposto di Renzi contro i magistrati. Inchiesta Open, ex premier parla di fango e pizzini. Bonafede, basta attaccare le toghe. Sì, perché le dichiarazioni di Renzi, ci raccontavano i giornali, mettono in difficoltà gli ex renziani perché sono troppo simili a quelli di Berlusconi al tempo di Rubi Rubacuori. Mentre Carrai e i soci di Lussemburgo, ancora col Corriere, intreccio con i finanziatori di Open. Mentre Renzi si trova in questo momento in un passaggio un po' stretto tra Scilla e Caridi, abbiamo invece Silvio Berlusconi, che ormai è già stato ingoiato dalle sirene ed è quasi digerito, e sono sirene di estrema destra. E allora il nostro digerito dice a Francesco Verderami: una volta al governo con la Lega eviteremo noi l'isolamento nell'Unione Europea, quindi siamo fritti. Parlando anche di sardine, il leader: sono convinto che Dell'Utri sarà assolto, non mi ha mai chiesto favori per la mafia, però non ha parlato al processo per l'amico Dell'Utri. Poi abbiamo il pagliaccio è Flavio Di Muro della Lega, che non ha trovato niente di meglio per far sapere che esiste, che intanto va anche in Parlamento, a dire alla sua fidanzatina che era in tribuna al Parlamento: si è alzato e con l'anello aperto, Elisa mi sposi. La proposta in aula, esibizionista, e poi va, diciamo, non dia nessun aggettivo. In Parlamento Flavio Di Muro della Lega ha preso la parola e si è rivolto alla fidanzata, ed è un paginone, l'amore ai tempi della politica. Anna Pettinelli però dice: momento sbagliato in un luogo sbagliato, come dagli torto. Io dico di no, è un fatto privato da non esibire, ma il tempo non ci sta, perché con una persona dignitosa come Roberto Fico non c'è stato a questa sciocchezza, e non voglio dirvi peggio, e ha protestato in qualità di presidente della Camera e garante dei lavori. Il tempo di Roma è arrabbiatissimo. Alla Camera vince l'amore e Fico si infuria. C'è una casetta piccina sbocciata tra i fiori, dove si attende soltanto che giunga l'amore. Come una piccola fata tu darle vita saprai, nella casetta incantata la gioia sarà. Sposi, oggi sapere il sogno e siamo sposi, apre la nuova vita nostra e più gioiosi, radiosi verranno i dì in una soffusa aurora di tenera dolce pace. Sposi, oggi sapere il sogno e siamo sposi, tutto risplende a noi d'intorno e luminosi ci sembran persino i fior. Sposi siamo al fin, mio dolce amore. La nostra radio un'amica fedele sarà, e con il mondo lontano riunirci potrà. La porta noi chiuderemo quando la sera verrà, presso alla radio staremo, che felicità. siamo al fin. È una bella storia, difficile continuare a trovare le parole dopo Rabaiati. Sposi! E invece c'è sempre chi, i criminali, come l'ONG. Sì, perché questa mattina leggiamo che l'Oscar Viking salva 60 persone, delinquenti, la mettono in galera secondo Salvini. 60 persone a bordo di una barca di legno gravemente sovraffollata e instabile, leggo sempre da un'agenzia che arriva testé in redazione, sono state salvate dall'Ocean Viking con nave gestita dalle ONG Medici Senza Frontiere SOS Mediterranee a 60 miglia dalla costa libica. Lo riporta Medici Senza Frontiere sul suo post, sul profilo Twitter. L'organizzazione umanitaria riferisce che si è trattato di un'operazione impegnativa tra migranti che sono stati portati in salvo, anche un bambino di 3 mesi e suo fratello di 3 anni. Ma allora cosa dice la destra? No, aiutiamoli là, no? Si dice così, no? E infatti subito arriva la notizia del giornale con Antonella Maldiretti: il governo regala 20 milioni all'ONG. Delinquenti, perché dice la desalvinizzazione avanza, ho pubblicato un bando per la cooperazione in Africa, ma là non era in Africa. Francamente, evidentemente noi sentiamo né qua né là, sembra essere la... Però siamo nella pagina del razzismo, del nazismo, di quello che si dice con un gergo un po' più popolare, dei pezzi di merda. E allora sognavano un partito nazista, gli ebrei vanno sterminati. Questo succede nella cronaca, che viene riportato dal Corriere della Sera. Avevano già nome e simbolo e inneggiavano il Führer, indicato 19 persone. C'è anche zia, credo si chiamasse zia Hitler, quella che ha un grande tatuaggio nelle spalle con l'aquila imperiale del Terzo eccetera eccetera, e questa roba di questo genere. Ma lo sport è anch'esso contaminato dal razzismo. Venga al Corriere di Bologna, perché si parla di Balotelli e non c'è solo Balotelli, la parata di Daffe contro il razzismo. Leggiamo che la Gazzanese, che non è proprio nella Champions League, ma questo non c'entra, non fa ricorso dopo la sua squalifica, c'è riempito d'orgoglio. Cosa succede? Ce lo racconta il Corriere di Bologna. La storia della partita sospesa per l'uscita dal campo del portiere della Gazzanese, insultato domenica da uno pseudo tifoso della squadra avversaria, a un finale ancora da scrivere. Nelle ultime ore ha però incassato la squalifica del giocatore e la penalizzazione della squadra di cui fa parte. E questo ovviamente credo che si commenti da sé. Beh, bella la replica del presidente, che ha deciso di non fare ricorso. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, ha detto. Nell'episodio è intervenuto anche il presidente della regione Bonaccini. Sì, ricordiamo che l'episodio è che il portiere è uscito dal campo, si è tolto i guantoni, l'arbitro ha estratto il cartellino rosso, perché per uscire dal campo occorre il permesso dell'arbitro. Non fanno uscire il cosiddetto pseudo tifoso, esce il portiere. Esce il portiere, ma insieme al portiere è uscita anche tutta la squadra, cioè tutta la squadra era solidale con lui, e adesso questo è il giudizio. Li hanno castigati. Del giudice sportivo. Così come l'Ocean Viking è colpevole di solidarietà con chi affoga, la Gazzanese è colpevole di solidarietà con chi è insultato per il colore della pelle. Questa è la morale. Questa è la morale. Parliamo ancora di cronaca e parliamo ancora di notizie inerenti vicine al calcio. Roma in mano ai narcos. A capo c'era l'ultra Diabolic, l'ex leader della curva della Lazio, ucciso ad agosto. 50 arresti nella retata di ieri. Lo stesso Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, 53 anni, che è stato ucciso lo scorso 7 agosto in un parco, assoldava dei pugili rumeni per recuperare i crediti dovuti allo spaccio, e gli affari erano intorno ai 120 milioni negli ultimi 6 mesi. Ancora la notizia dalla Sicilia, simile a quella che ha dato testè Alfredo. Siamo il partito nazista, il blitz della Digos a Enna, 19 indagati, e questo è da nord a sud dell'Italia. Hanno trovato armi, esplosivi a disposizione dei militanti che erano reclutati e addestrati sul web, coinvolto anche un boss dell'Andrangheta. C'era questa milanese, Francesca Rizzi, super tatuata, bionda, ossigenata, terribile, la quale pare che avesse una doppia vita, e la sua famiglia era del tutto ignara della cosa. Ancora notizie abbiamo sulla cronaca da parte dell'Italia. Ritorniamo ai disastri idrogeologici. problemi di staticità al viadotto della 12, 20 tecnici sono stati indagati. Genova, abbiamo una perizia della procura con le infiltrazioni d'acqua, il cemento che marcisce sopra i pilastri e le indagini, ci sono anche altri 4 ponti. Oggi riapre la 6. E ancora i 5 Stelle che vogliono a Palazzo Chigi vogliono togliere la concessione e si tratta anche di bloccare le tariffe dell'autostrada. Ancora altre notizie che riprendiamo dalla cronaca. Sì, riprende appunto anche la Repubblica, l'ascesa della banda di Diabolik, e fa una cronaca sulle mafie, i clan locali, i bravi ragazzi, la guerra, la pace dei narcos che si dividono la capitale. E c'è anche un retroscena sulla tragedia del ragazzo Luca Sacchi insieme a Anastasia, indagata per spaccio, e sembra che la rapina sia inventata per coprire un traffico di droga. E c'è una svolta questa mattina su questo delitto, 5 persone in qualche modo indagate. Ma la banda diabolica inondava Roma di cocaina è titolo anche del Corriere, con 51 arresti. Come sempre il triangolo è quello, delinquenti, mafia, 'ndrangheta, nazisti, ci sono anche nazisti, e certe curve degli stadi. È sempre quello il triangolo, e spaccio di droga, che è il collante di questo bell'ambiente. Nel frattempo parliamo ancora di odio. Martina, l'ultima beffa, sconta i condannati. La ragazza caduta è morta per sfuggire ad uno stupro, ricorda il Corriere. Nel 2011 Martina cade da un balcone di un hotel di Palma de Mallorca perché stava sfuggendo a un tentativo di stupro. Per i due presunti responsabili, prescritti ieri in appello, l'accusa più grave, morta con conseguenza di altro reato. Quindi rimane l'altro reato. E allora il Fatto Quotidiano, che sta facendo una battaglia contro la prescrizione, Il Tempo ha cancellato la morte di Martina, segnala a Firenze, la ragazza, questa la ragazza di Firenze, ma era Palma di Mallorca, precipitò dalla finestra nel 2011 tentando di sottrarsi a questa violenza sessuale. Salvi i colpevoli, estinti in appello le due condanne per decesso come conseguenza di altro reato. La reazione del padre, raccontata dal Corriere, è una decisione impossibile da digerire, difficile dargli torto. E poi andiamo in Ungheria, qui ci avviciniamo anche alla pagina internazionale. L'Ungheria lascia l'Eurovisione, troppo gay. Il festival della musica organizzato dall'Unione Europea. Cioè, si è messo in mezzo a Orban. Questa è la dimostrazione di cosa succede se vincono i sovranisti e governano loro. Si torna, come dice Linus, interpellato dal giornale, che autogol torna al Medioevo, censurate pure Michelangelo, magari mettiteci le braghette come si faceva una volta. Naturalmente fa scandalo la drag queen Conchita Wurst, che vinse l'Eurovision Song nel 2014, e allora Orban detto, non se ne parla. Still feel all free. Conchita Wurst, la drag queen con la barba. Ma veniamo invece alle crisi sociali profonde che attraversano mezzo mondo, e non quelle già entrate nella mattanza come lo Yemen, ma quelle che sono un passo prima del baratro finale. Siamo per esempio legge USA pro proteste ad Hong Kong, l'ira della Cina. Trump, tanto per non buttare benzina sul fuoco, ha firmato due decreti a favore dei manifestanti. Pechino pregiudiziali ed arroganti. Effettivamente si può ben dire che una superpotenza vuole dare la colpa a quell'altro, a piena ragione, perché Trump può parlare di Hong Kong, la Cina può parlare della Bolivia, insomma ognuno ha i suoi piccoli e non troppo piccoli scheletri nell'armadio. La decisione di Washington non favorisce i colloqui in corso per la guerra dei dazi, segnala Simone Pieranini dal Manifesto. Sempre dal Manifesto. Arrivo in Iraq. La polizia massacra la protesta, sono 370 le vittime in due mesi, quindi è una vera guerra, perché c'è la rivolta contro la maggioranza sciita radicale filo Iran. Le strade sono piene di sangue, questo è quanto. E la mattanza invece è già presente in Libia. Gli impianti in Libia sotto attacco a Serraj si consegna ad Erdogan, e Serraj si consegna ad Erdogan, cioè Serraj cambia padrone. Mentre la Farnesina, Palazzo Chigi tacciono la guerra, continua il generale Haftar con un mercenario russo, stringe l'assedio a Tripoli. Insomma, sempre peggio, se ci fosse mai un limite al peggio. E Tripoli, segnala Alberto Negri, sempre dal Manifesto che sto sfogliando, dopo essere considerato il porto sicuro, adesso è il porto del silenzio. Cioè, siccome non si può più dire che sia sicuro, beh, si parla d'altro. Questo è quanto. Abbiamo anche poi l'Afghanistan, sì, abbiamo l'Afghanistan col Corriere della Sera. Anche questo è un paese che ormai è precisato nel baratro già nel 2001, e gente vessata, massacrata. Si diceva che l'intervento occidentale era indispensabile per salvare le donne dal burqa, e oggi, puntuale, Trump ha sorpreso in Afghanistan, i talebani vogliono un accordo. Cioè, parte il petrolio, rimane il burka. Questo è il concetto, ed è la morale che non ci sorprende. Firmata a Washington la legge di sostegno ad Hong Kong, irritazione di Pechino, segnala anche il Corriere. In Inghilterra, in un sondaggio che proietta Boris verso una vittoria stile Thatcher, avere cavalcato la Brexit fa un gran bene a Boris Johnson, nonostante che sia a dir poco ridicolo, a dimostrazione come sia poi falsa la vulgata europea continentale secondo cui il Leave ha vinto per caso. Erano tutti per Remain, e invece se chi sposa il Brexit vince la grande, evidentemente c'è peggio un sentimento di forte rancore nelle masse popolari del Regno Unito. Se usciamo dalle grandi città, se usciamo da Erasmus, se usciamo dalla City, se andiamo invece nella profonda Inghilterra, nella profonda Scozia, nella profonda Irlanda, le cose vanno diversamente. YouGov, maggioranza di 68 seggi, con questi numeri sarà Brexit il 31 di gennaio. Sì, il sondaggio che è uscito recentemente, che riguarda appunto le previsioni delle elezioni del 12 dicembre, che non sono a percentuali ma a seggi, danno per vincente Boris Johnson, che è considerato il primo ministro britannico meno affidabile a memoria d'uomo. Il suo indice di gradimento è sorprendente basso, considerando che è in carica da solo 4 mesi, eppure appunto i sondaggi lo danno previdentemente vantaggio. Questa era una delle notizie dell'estero della stampa, e che fa il paio con l'ira della Cina per la legge del USA a favore di Hong Kong. Pechino ha minacciato ferme contromisure se gli Stati Uniti continueranno a sostenere i manifestanti pro-democrazia che da quasi 6 mesi scendono per le strade di Hong Kong. Solo una manciata di ore dopo la firma di Donald Trump sull'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, la risposta delle autorità della Repubblica Popolare è stata furiosa. Il Ministero degli Esteri cinese ha convocato l'ambasciatore americano e ha avvertito che la mossa potrebbe minare la cooperazione tra le due più grandi economie del mondo. E fra i due litiganti, quello che ci rimette è l'Europa, che a quanto pare è una terra di conquista da parte di queste grandi superpotenze. Ce lo dice un'intervista fatta da Marco Bresolin a Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, il quale dice: serve una nuova strategia. Ancora notizie appunto dal mondo. Il numero del giorno della pagina della stampa è 12.000, che sarebbero i civili uccisi nello Yemen dall'inizio del conflitto. In Yemen inoltre un caso su tre l'uso delle armi esplosive ha ucciso una donna e un bambino, vittime collaterali di raid aerei, bombardamenti via terra che colpiscono le aree popolate, campi profughi, scuole e ospedali. Tragicamente il loro numero cresce, con oltre 3 civili uccisi al giorno nel 2019 ed un aumento del 25%. Ancora sulle notizie dal mondo, le prendiamo dalle pagine di Repubblica, pagina 20, c'è una bella intervista a Lula, il quale dal Brasile ci parla appunto della democrazia e dice: per Bolsonaro la democrazia è un ostacolo, sono pronto dopo il carcere a sfidare questi pazzi. Ha detto per anni che non si sarebbe mai ritirato dalla politica ed eccolo qua, a 74 anni, dopo 2 mandati come presidente, un cancro debellato, 580 giorni di carcere per corruzione, il 7° figlio di una coppia di contadini analfabeti, il ragazzo che dovette lasciare la scuola anche se andava bene, il metallurgico diventato leader sindacale a forza di scioperi durante la dittatura, il presidente della Repubblica che ha fatto uscire milioni di cittadini da una condizione di povertà. Lula Silva illustra i suoi piani per il futuro in una delle prime interviste dopo la scarcerazione decisa dalla Corte Suprema. Ancora abbiamo qualcosa per ricordare il mondo, e a parte sì, il Trump a sorpresa che vuole in Afghanistan a prendere accordi con i talebani e direi ancora qualcosa sull'Albania. No, prima vorrei dire qualcosa sul Brasile. Okay. Per parlare di Lula, sì, che se ritorna, torna in modo molto convincente. C'è una politica brasiliana, io lo voglio impedire, perché il golpe via tribunale che l'America Latina dilaga continua anche in Brasile, perché leggo da Claudia Fanti: corruzione, corte d'appello, aumenta la pena per Lula. Cioè non gli danno tregua. E chi è il relatore? È un magistrato ben noto alla sua parzialità, è João Gebran Neto, che non solo è legato a Sergio Moro, uomo di Bolsonaro, da un rapporto di amicizia, ma anche ha intrattenuto, come emerso nella rivelazione di Intercept sui Lava Jato, un'illecita collaborazione con la task force presunta del TAN Dallagnol, tutti i gruppi fascisti golpisti brasiliani. Non c'era dunque molto da aspettarsi, commenta il manifesto, dalla sentenza d'appello sul caso Atabalhá, di cui Lula è accusato di aver ricevuto un tangente di 1 milione di rei nelle imprese di costruzione. Questo è quello, quindi cercano di tenerlo fuori gioco comunque con accuse su accuse su accuse. In Spagna, governo Sanchez corteggia gli indipendentisti catalani, al via il negoziato con Esquerra Repubblicana, se il partito Juncker si astiene, cioè il partito della indipendenza catalana, è fatta, quindi non si andrebbe a votare per la quinta volta. I socialisti, quindi dice Luca Cantredo Barone da Barcellona, questa volta puntano a sinistra, vogliono un esecutivo entro Natale. Forse che fosse la volta buona anche per la Spagna, chi lo sa. In America Latina, Cuba sotto attacco di Trump, con le riforme in mezzo al guado. Roberto Levi è molto preoccupato per la questione della isola caraibica, perché appunto la politica di Trump è devastante, è di attacco a tutta la linea contro le sinistre in America Latina. Mentre l'isola infatti è sottoposta alla più spietata guerra economica da parte della Casa Bianca, ricordate quando con Obama sembrava fosse un'apertura, un riconoscimento, è tutto finito, siamo tornati ai malefici anni della Baia di Porci. C'è penura di beni primari, nonostante gli stimoli di Daniel Díaz-Canel, langue il sistema produttivo, quindi Cuba in questo momento rischia un periodo speciale, secondo questo articolo del manifesto. Malta, omicidio Daphne, una vita venduta per 150.000 euro, quindi sappiamo qual è la borsa di stine degli assassini. Fenech, ex capo della holding Tumas, confessa, pagò la somma all'intermediario tra lui e 3 sicari della giornalista, quindi sono 50.000 a testa il sicario, per sicario. Il premier Muscat, in 15 mesi fa, diede l'ok, il suo capo staff arrestato lo sapeva, quindi direi che il primo ministro di Malta è inguaiato fino al colle, forse anche un po' di più. Dicevi l'Albania, certamente, naturalmente, come era prevedibile, purtroppo non auspicabile, salgono i morti, sono a 49, mentre si scava nelle macerie. E allora, a 3 giorni dal sisma devastante, la terra continua a tremare e il bilancio della vittima appunto sale di ora in ora. Per fare il punto della situazione abbiamo raggiunto Pano Soco, che è attivista della campagna popolare Nisma Turie. Sentiamo le sue parole. Per il momento il peggio è passato, cioè ci sono dei terremoti ma sono più piccoli, non aspettiamo un grande terremoto come quella di 26 di novembre. Per il momento siamo tutti al nostro focus è l'aiuto dei cittadini che hanno bisogno.

c'è subito scattato in mattinata il primo sciopero di 4 ore. Appena ricevuta la notizia della richiesta di concordato, i lavoratori hanno fermato le macchine e sono usciti dallo stabilimento di Bentivoglio. Altre 8 ore di sciopero sono previste lunedì con un corteo fino alla sede del comune. C'è Landini, che è molto preoccupato, il leader della CGIL, dice: alta occupazione, ma si deve fare di più per il lavoro, i sindacati, cresce la cassa integrazione, per ora ci vuole un piano e un patto regionale, bisogna dare continuità alle scelte, ma servono posti di qualità per superare la precarietà e le false cooperative. Allora, per ricordare il massacro del Saint Creek di André, e ciao a tutti. Ciao. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno: è solo un sogno? Mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Saint Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse.